Alta Voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal. State bene attenti a quello che adesso vi dico. Il matrimonio con Lisa si svolse a Kebb, in una sala rossa del comune. Dovunque c'erano vessilli rossi con l'insegna della croce uncinata. Anche i funzionari portavano uniformi marroni con fascia rossa sulla spalla e su quella fascia c'era la croce uncinata. Io ero vestito col frac e sempre con la fascia azzurra sul petto e la decorazione che avevo ricevuto dall'imperatore d'Abissinia. E la sposa, Lisa, portava di nuovo col suo vestito da cacciatore con la camiciola ornata di ramoscelli di quercia. Sul bavero aveva una croce uncinata, in campo rosso. E non fu affatto un matrimonio, ma un qualche atto statale militare durante il quale si parlava incessantemente di sangue, onore e dovere. E alla fine il sindaco della città, anche lui in uniforme, stivali e camicia marrone, ci chiese come fidanzati di accostarci a una specie di altare. Lì pendeva liberamente una lunga bandiera con la croce uncinata e sul tavolinetto c'era un busto illuminato dal basso di Adolf Hitler che aggrottava la fronte per le lampadine che da sotto gli gettavano ombre sulle rughe. E il sindaco prese la mia mano e la mano della sposa e le mise in quella bandiera e attraverso quella stoffa ci strinse la mano e assunse un'aria solenne. Ora era venuto l'atto dello sposalizio e il sindaco ci disse che da quel momento ci appartenevamo e che il nostro dovere era di pensare solo e soltanto al Partito Nazionalsocialista e procreare bambini che dovevano essere educati anche loro nello spirito di quel partito. E poi al sindaco vennero quasi le lacrime e ci disse solennemente di non preoccuparci se non potevamo cadere ambedue nella battaglia per la nuova Europa, ma che loro, i soldati e il partito, in quella battaglia avrebbero continuato fino alla vittoria finale. E poi un disco suonò da un grammofono di Fane Hoch di Ryan Dichtgeschlossen. La bandiera sventola alta e i ranghi sono serrati. E tutti lo seguivano, cantavano quel disco, anche Lisa. E io a un tratto mi ricordai che prima cantavo sempre sui bastioni di Strahov e Dov'è la mia patria. Ma ciononostante, cantavo a bassa voce, anch'io. Lisa mi toccò leggermente con il gomito e mandava lampi dagli occhi. E così continuai a cantare con gli altri. S.A. Marschart. E cantavo con sentimento e alla fine come se fosse un tedesco. Quando guardai tutti quei quelli che erano testimoni del mio matrimonio, c'erano anche colonnelli e tutti gli altri pezzi grossi del partito di Kebb. Sapevo che se avessi fatto il matrimonio a casa mia sarebbe stato come se non fosse successo nulla, ma lì, a Kebb, era quasi un avvenimento storico, perché Lisa qui era conosciuta. E poi la cerimonia nuziale finì e io stavo lì e porgevo la mano per le congratulazioni, ma cominciò a scorrermi il sudore perché gli ufficiali, sia della Wehrmacht che della SS, la mano non me la davano. Ancora una volta, io ero anche per loro quel cameriere, quel piccolo, quel tappeto cieco, quel cosino, ma tutti quasi si gettarono su Lisa e le facevano le congratulazioni in maniera così provocatoria che io stavo lì da solo, nessuno mi dette la mano. Il sindaco mi batté sulle spalle e io gli porsi la mano, ma neanche lui la accettò. Così restai un momento come se per la mano porta mi si fosse irrigidito il corpo intero. Il sindaco mi mise un braccio sulle spalle e mi portò nell'ufficio perché firmassi e pagassi le tasse per l'atto ufficiale. E io feci ancora un tentativo. Lasciai sul tavolo 100 marchi in più. E uno degli impiegati mi disse, in un cieco stentato, sebbene io parlassi con lui in tedesco, disse che qui non si davano mance, che qui non era né un ristorante, né uno spaccio, né un'osteria, né una trattoria, bensì l'ufficio dei creatori della nuova Europa, nella quale decisivi sono il sangue e l'onore, e non già come a Praga il terrore, la corruzione e gli altri costumi capitalistici e bolscevichi. E il banchetto di nozze si svolse nel ristorante alla città di Amsterdam e di nuovo vidi come tutti brindavano anche a me, però tutto girava intorno a Lisa. E io cominciai di nuovo a sentirmi nel ruolo dell'ariano sopportato, sì, ma sempre boemaccio dei sudeti, anche se aveva i capelli gialli chiari chiari e sul petto la fascia rossa e sul fianco del frac quella decorazione in forma d'oro sfrangiato. Io però non facevo vedere niente, come se non vedessi. Sorridevo. E anzi, mi faceva bene di essere il marito di una donna così importante, come tutti gli ufficiali certamente, se fossero stati celibi, avrebbero aspirato o avrebbero potuto aspirare a lei, ma nessuno di loro l'avrebbe avuta. Ma ero io, e solo io, quello che l'aveva fatta incantare. Probabilmente quei soldati non riescono a far altro che saltare con gli stivali su una donna nel letto, e solo sulla loro, per difendere il sangue e l'onore, senza neppur pensare che a letto c'è anche bisogno di amore. Gioco, giocosità, così come sapevo far io, come c'ero arrivato già tanto tempo prima, dai Paradiso, quando avevo ricoperto il pancino della cameriera nuda di felci e petali di ciclamini, e infine 2 anni prima anche la pancia di questa tedesca cosciente di sé, di questa comandante di volontari e militari, di questa alta funzionaria di partito. E così, mentre qui lei riceveva le congratulazioni, nessuno avrebbe potuto immaginare quel che avevo visto io. Come stava stesa nuda sulla schiena e io le ricoprivo la pancia di ramoscelli verdi, diabete. E lei prendeva questo con lo stesso onore. Forse anzi con onore anche maggiore di quello per cui il sindaco stringeva la mano ad ambedue attraverso il vessillo rosso e ci compiangeva perché non potevamo cadere ambedue nella battaglia per la nuova Europa, per quell'uomo nuovo. Nazionalsocialista. Vedendo che sorridevo, che avevo accettato quel gioco al quale ero stato condannato da quell'ufficio, prese il bicchiere e mi guardò. Tutti si irrigidirono a quel rito, e io mi alzai per essere ancora più alto. Stavamo l'uno di fronte all'altra, con i bicchieri fra le dita, e gli ufficiali guardavano per vedere, fissare, congetturare meglio, come se fossimo stati a un interrogatorio. Elisa scoppiò a ridere, come aveva riso quando eravamo stati insieme nel letto, quando ero stato galante alla francese con lei. Ci guardavamo fissi, come se lei fosse nuda, e io anche. E il bianco degli occhi le si rovesciò di nuovo, una specie di velo, quell'attimo in cui le donne perdono non i sensi, ma gettano via le ultime difese e danno via libera a che ci si comporti con loro come meglio si pensa, a seconda di quel momento in cui si apre un mondo diverso, il mondo delle carezze e dei giochi amorosi. E così mi baciò lungamente davanti a tutti e io chiusi gli occhi. Tenevamo in mano i bicchieri con lo champagne e come ci baciavamo così i nostri bicchieri si inclinarono e il vino si versava lentamente sulla tovaglia e tutta la compagnia tacque e da quel momento tutti restarono turbati. Mi guardavano ora con rispetto, anzi continuavano a esaminarmi e con quell'esame accertarono che quel sangue tedesco gode col sangue slavo ben più che appunto con quello tedesco, e io in un paio d'ore diventai sì uno straniero, ma uno straniero che tutti stimavano con una lieve invidia e odio. Anzi, anche le donne mi guardavano in modo da esaminare, ma che avrei potuto combinare in un letto, insieme a loro. e accettavano che ero capace di alcuni giochi particolari e di veemenze, sicché sospiravano dolcemente e rivoltavano gli occhi e si mettevano a conversare con me, e io, sebbene confondessi der, di, das, parlavo a quelle donne che in quel loro orribile tedesco dovevano parlare con me lentamente, come si articolano le frasi alla scuola materna. Si beavano delle mie risposte e trovavano che le mancanze del mio tedesco da conversazione erano un fascino che le faceva ridere, che evocava in loro la magia delle pianure e betulle e prati slavi. Invece tutti i soldati, sia della Heereswaffe che della SS, tutti si indurirono con me, quasi si arrabbiarono. Tutti avevano compreso molto bene come mi ero accattivato la bella Fulva Lisa, perché invece che all'onore e al sangue tedesco aveva dato la precedenza all'amore animale e bello, di fronte al quale loro, benché grondassero di decorazioni e riconoscimenti per le campagne di Polonia e di Francia, erano impotenti. E così, quando ritornammo dal viaggio di nozze in quella cittadina sopra Diecin, laddove avevo fatto il cameriere, desiderio di Lisa fu che avessimo un bambino. Ma tutto questo non faceva per me. Davvero slavo, io ero soggetto all'umore. Io potevo fare ogni cosa sotto l'impressione del momento, ma quando mi disse di prepararmi, mi sentii proprio come quando quel dottore del Reich mi aveva pregato, secondo le leggi di Norimberga, di portargli su un foglio bianco un po' di seme. Così fu proprio la stessa cosa quando Lisa mi disse di prepararmi, che quella sera ero nella situazione in cui poteva concepire quel nuovo uomo, quel futuro fondatore della nuova Europa, perché già da una settimana ascoltava dal grammofono i dischi di Wagner e Lohengrin e Siegfried. Aveva già fatto la scelta che se fosse stato un maschietto si sarebbe chiamato Siegfried Dietje. Per tutta la settimana era andata a guardare tutte le scene sui bassorilievi nelle logge e nei colonnati. Restava lì sul far della sera quando contro il cielo azzurro si ergevano re, imperatori tedeschi, eroi e semidei germanici, mentre io pensavo che le avrei nuovamente ricoperto la pancia intera di fiori. Che prima avremmo giocato come bambini, tanto più che eravamo i diti, e Lisa quella sera venne in una lunga tunica, con gli occhi senza amore, però pieni di dovere e di quel loro sangue e onore. Mi porse la mano e farfugliò qualcosa in tedesco e guardava verso il cielo, come se da quel soffitto e attraverso quel soffitto ci guardassero tutti quelli del cielo germanico, tutti i Nibelunghi e addirittura anche lo stesso Wagner, che Lisa esortò ad aiutarla a restare incinta così come desiderava, secondo il nuovo onore germanico, affinché per una grazia nella sua pancia incominciasse la nuova vita del nuovo uomo che avrebbe fondato e vissuto il nuovo ordine del nuovo sangue, del nuovo modo di pensare, del nuovo onore. E ascoltando tutto questo sentì come da me se ne andava tutto ciò che fa di un uomo, e così me ne stavo steso e guardavo il soffitto e sognavo il paradiso perduto, come tutto era bello prima del matrimonio, come con tutte le donne avevo vissuto come un cane bastardino, mentre ora venivo posto di fronte a un compito come un cane di razza, con una cagna di razza, e sapevo e avevo visto quanti problemi dava questa cosa, come gli allevatori dovevano aspettare giorni interi il momento giusto, come da noi era venuto un allevatore dall'altro capo della Repubblica con una cagnetta e se n'era dovuto ripartire perché un fox terrier insignito di premi non l'aveva voluta. Alla fine, quando vennero la seconda volta, dovettero mettere la cagnetta su un mastello nella stalla e con un guanticino la dama dovette introdurre il sesso del cane, e con un frustino sopra la testa il cane fu obbligato a ingravidare quella cagna, sebbene con molto gusto, proprio come la cagna di razza si desse a qualsiasi botolo, oppure il signor ufficiale superiore aveva un San Bernardo e per tutto un pomeriggio non riuscirono a fargli far conoscenza con una cagnetta venuta fin dalla Sumava, perché quella cagna era più alta di quel cane. Alla fine l'ingegner Marzin li portò su un pendio del giardino, scavò lì una specie di fossetto. Per un'ora prepararono il terreno per quel matrimonio san bernardiano, finché la sera, distrutti, quando ebbero preparato il pendio con l'ultima palata, la cosa accadde. Quella cagna la misero sotto quello scalino e quell'altro, che ne era di un gradino più basso, si trovò di pari altezza e così si giunse all'unione, ma obbligata, forzata, mentre secondo natura un cane lupo si unisce a una femmina di bassotto con enorme piacere, o la femmina di un setter irlandese con un cane da stalla, e io ero messo proprio allo stesso modo. E così l'incredibile diventò realtà. Per un mese dovetti andare a farmi le punture, iniezioni ricostituenti, sempre una batteria intera di aghi, spuntati come chiodi nel sedere per rafforzare la psiche. E dopo essermi fatto 10 di quelle batterie lì, ci riuscì che una notte ingravidai Lisa secondo le regole. E così lei concepì. Tuttavia ora era lei che doveva farsi fare iniezioni ricostituenti, perché i dottori temevano che quel nuovo uomo non l'avrebbe portato a termine o che avrebbe abortito. Così di tutto quel nostro amore non restò niente, e di quei coiti nazionalsocialisti restò solo una certa prestazione. Anzi, Lisa non mi toccò neppure il sesso, e io ero soltanto messo alla monta secondo la regola e l'ordinamento del nuovo europeo. Il che non mi faceva bene, ma tanto tutta questa cosa del bambino era comunque soltanto scienza e chimica e soprattutto iniezioni. Lisa per le iniezioni, come chiodi, aveva il sedere tanto bucherellato che ci dedicavamo piuttosto alla medicazione delle cicatrici e soprattutto della ferita sempre aperta in me per le iniezioni, perché potessi procreare un bel bambino nuovo. E in quel tempo mi accadde una cosa sgradevole. Mi ero accorto già molte volte che dall'aula dove si tenevano le lezioni sul glorioso passato degli antichi germani, ora si sentivano lezioni di russo. I soldati, anche qui, mentre adempivano i doveri della stirpe per ingravidare belle ragazze fulve, in più imparavano la lingua russa. Certe frasi di base, sicché una volta il comandante mi domandò che ne dicevo mentre ascoltavo sotto le finestre il corso di russo, e io dissi che a quanto sembrava ci sarebbe stata la guerra con la Russia, e lui cominciò a gridare che sobillavo la pubblica opinione, e io dissi che lì non c'era nessuno, solo lui e io, e lui gridò che avevamo un patto con la Russia e che era sobillazione e diffusione di notizie false, e io mi accorsi solo allora che era quel comandante che era stato testimone di matrimonio a Lisa e che era stato lui quello che non soltanto non mi aveva stretto la mano né mi aveva fatto le congratulazioni, ma aveva aspirato a Lisa prima di me, e io l'avevo fregato. E ora era venuto il tempo di rendere pan per focaccia e mi denunciò. E io stavo davanti al comandante generale di questa cittadina dove si allevava la nuova Europa, e quando mi ebbe gridato addosso che era un'idiozia, che sarei finito davanti al tribunale di guerra, che era uno sciovinista cieco, ci fu un allarme nel campo. Il comandante, quando prese il telefono, impallidì. Ed ecco fatto. È la guerra. Come avevo previsto io. E il comandante, solo in corridoio, mi disse: come l'hai indovinato? E io dissi, modestamente, che avevo servito l'imperatore di Abissinia. E il giorno dopo mi nacque un figlio. Elisa lo fece battezzare con il nome di Siegfried, come l'aveva visto sulle pareti delle logge e sentito in musica seguendo Wagner, al quale si era ispirato, per quel figliolo. Thank you. ciò nonostante io fui licenziato e mi fu comandato di prendere servizio, dopo una vacanza, in un nuovo posto, nel ristorante Cestino, nel Ceschirai. Proprio sul fondo delle rocce, come in un cestello, stava quel ristorante e albergo, immerso nelle nebbie mattutine e nell'aria trasparente di mezzogiorno, un alberghetto destinato anche agli innamorati, coppie che passeggiavano sognanti per le rocce e i belvedere, per tornare mano nella mano o a braccetto per pranzo e cena. Tutti i movimenti dei nostri clienti erano sciolti e calmi, perché quel cestino era sì destinato anche alla Heereswaffe e alla Eseswaffe, e quegli ufficiali che prima di partire per il fronte orientale incontravano qui per l'ultima volta le loro mogli e amanti, qui era tutto il contrario di quella cittadina dove si allevava la nuova razza, dove i soldati venivano soltanto come stalloni e cinghiali da monta di razza per fecondare scientificamente quella sera stessa o entro due giorni le femmine tedesche con seme germanico. Tuttavia nel cestino tutto era ben diverso, a gusto mio, e anche per questo qui non c'era allegria, ma tristezza malinconica, una specie di atmosfera sognante che non mi sarei mai aspettato dai soldati. Quasi tutti i nostri clienti erano come i poeti prima di scrivere una poesia, ma non perché fossero proprio così. Erano certamente altrettanto villani e impertinenti e arroganti come gli altri tedeschi, sempre ebbri per aver sconfitto la Francia, anche se un terzo degli ufficiali delle divisioni Grossdeutschland erano caduti in questa campagna di Gallia. Qui questi ufficiali avevano davanti un'altra via, un'altra missione, altre battaglie, perché era un'altra minestra andare al fronte russo, che già a novembre era arrivato con un cuneo davanti a Mosca stessa, però non oltre. Così gli eserciti dilagavano oltre, ancora oltre, fino a Voronezh e ancora fino al Caucaso. E quella lontananza, e poi quelle notizie dal fronte, soprattutto le notizie dalle retrovie, dove i partigiani rendevano difficile la via del fronte, tanto e a tal punto che il fronte ormai si trovava nelle retroguardie, come mi disse Lisa, che era tornata dal fronte di queste battaglie russe, non era per niente contenta. Mi portò anche una piccola valigetta. E io lì per lì non sapevo che valore aveva il contenuto, ma era una valigetta piena di francobolli postali. Come l'aveva trovata, pensai. Ma Lisa aveva ricercato già in Polonia e in Francia francobolli nelle case degli ebrei, e in Varsavia stessa aveva saccheggiato durante le perquisizioni degli ebrei deportati questi francobolli, dei quali disse che dopo la guerra avrebbero avuto un tale valore che in cambio avremmo potuto comprare dovunque qualsiasi albergo. Quel mio figlioletto che stava lì con me era un bambino strano. Non riuscivo a riconoscere in lui nemmeno un tratto mio, un solo segno ereditato da me o da Lisa, addirittura nemmeno ciò che prometteva quell'ambiente col Valhalla. Addirittura in questo bambino non c'era traccia nemmeno di quella musica di Wagner, ma al contrario, era un bambino impaurito che già a 3 mesi soffriva di convulsioni. E io servivo clienti di tutte le regioni tedesche. Andavo conoscendo e poi ormai indovinavo e riconoscevo con assoluta precisione se un soldato tedesco veniva dalla Pomerania, se era un bavarese, se era un soldato della Renania. Distinguevo con certezza se era un soldato di mare o di terraferma, se era un operaio o un contadino. Era il mio unico divertimento, lavorare da mattina a sera e a notte senza riposo, senza tempo libero. perché io non riuscivo più a divertirmi con altro se non indovinando che cosa prendeva e da dove proveniva l'uno o l'altro, e non solo con gli uomini ma anche con le donne che arrivavano anche loro con una missione segreta, ma quella missione era la tristezza e la paura, una sorta di solenne tetraggine. Vidi poi in tutta la vita coppie sposate e di amanti così tenere e piene di attenzione e che avessero negli occhi tanta malinconia e tristezza. Era come quando a casa le ragazze cantavano Occhi neri perché piangete, oppure rombavano i monti e simili. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.